non si smette, no, no. Il fatto è che non tutto lo puoi mettere. Ti voglio i tuoi occhi fissi nei miei quando ti fai gli affari miei. Ehi, hey, ma chi sei? Essere schietti, perché se non ammetti non mi rispetti, è meglio che smetti, neanche mettici. Ma giro per caso in cerca d'altre sigarette, pensa cosa non sarebbe se qui si riuscisse a smettere. Ammetti che si tratta d'ambientazione, dammi una spiegazione logica sul tuo nome. Voglio che il progetto sia scritto e firmato, io te lo garantisco il risultato. Ma vada, solo se capisco che è il caso, se intuisco che è una farsa, ti sfaso. Io non inizio per sficcio, dimmi se sei un tizio che ce l'ha per vizio di non oltrepassare l'inizio. Azione ambigua la tua, attuati malo modo, di modo che affogano e poi si sfogano su di te. Di tentativi 30 giorni inattivi li accusi, illudi gli usi, disfi dispositivi più che disposti. Che imposti, non fai fronte ai tuoi costi, no, no. Lamentati dei tuoi danni, non dei nostri. Io me ne fischio del rischio, mi ci mischio, non è neanche che preferisco, è l'unica per cui impazzisco. Non accetto il narcisismo, non fa per me il protagonismo. Ma se ti ostini a ridicolizzarti con i tuoi festini, sfighe e schivi finché vestite estivi, stiviglia che incassano anche nei giorni festivi. Se stabacchi sappi sempre meno tempestivi, cosa le stivi? Eccessivi, finti, trasgressivi, aggressivi, faccia a faccia poi mi schivi, come te la vivi? Troppo sforzo, ma sei sbagliato corso, corre soccorso, troppi lassativi. Rilassati, è possibile che non troviamo un attimo di calma. Calmati che qui al mattino siamo più attivi. L'ansia non porta se non a confondere, siediti un po', svagati, poi ti cominci a muovere. Con calma ci arrivi, con l'ansia neanche inizi. Ci vuole costanza, non sprazzi né schizzi. Ma secondo noi confondi i tempi, dici vorrei provarci anch'io, ma il fatto è che non te la senti, no, no. Ma non tutto può detergere, siamo pronti a crollare, mentalmente predisposti per riemergere. Ah, che crew pensi quanto la compensi, prendi spunti ma non si sa dove punti. Inizia a tremarti la terra sotto i piedi, cos'è ora non ci credi? E quei discorsi senza non potrai vivere, si tratta di escludere, è inutile, non ce li puoi mettere. Ora che vuoi smettere? Ma smettila dai, ma cosa pensi davvero? Ma che fotta pensi davvero? Pensi davvero di non poter cadere? Ma chi mica spacchi? Chiaro che non si è tutti i giorni convinti, no, no. Il più è che siamo da sta roba spinti, distinti, distanti, soli dopo istanti cangianti. Gli attimi, le situazioni che ti trovi davanti. Conti concorsi, rafforzi rimorsi, leghi discorsi, prestazioni rimborsi, ma non rinforzi. Neanch'io ho la verità in tasca, anche a me spesso e volentieri mi casca. È un continuo video al buio. Occorre intuito, in lui ho sempre riscosso il mio meglio. Trovando un rimedio col minimo dispendio, non voglio uno stipendio, voglio ciò per cui sto investendo. Il tuo spazio ristretto ti sta stringendo. Perché te lo stai chiedendo? Perché sto invadendo. Spiegami un po' questa, vai tanto l'onesta, resta un tiro. Manca di tatto ma tanto non sei qui in giro. È un giro vuoto.